Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse, nonostante l'abbassamento di voto al debito spagnolo operato oggi dall'agenzia di rating, quelle che danno i voti, Standard & Poor's, inizialmente questo aveva creato un po' di incertezza, poi il buon esito dell'asta italiana dei BTP, ne parleremo, e anche alcuni dati americani, le hanno portate tutte in rialzo, anche diciamo netto, più 1,5 Milano, più 1,60 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 1,1 Londra. Si distinguono da noi soprattutto le banche: Unicredit più 4,33%, Popolare di Milano più 4, Monte dei Paschi più 4, Intesa San Paolo più 3,70, Ubibanca più 3%. Banco Popolare più 2,80, bene anche Autogrill più 3,80%, Pirelli più 2,60 e Fiat più 2,5%, bene anche Mediobanca più 2,70 come Mediaset. Pochi titoli tra quelli importanti in negativo, Eni meno 0,60 come Lottomatica. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, da un lato di nuovo un commento sulla manovra correttiva uscita, alla luce anche di quello che sta capitando però sui mercati del debito, e quindi asta italiana oggi e asta italiana ieri, ma anche abbassamento del voto alla Spagna. Parleremo però anche del tavolo che si è aperto e si è concluso ieri in serata, domani vi sarà un nuovo incontro, il tavolo tra datori di lavoro, intesi come Confindustria, ABI, Banche Italiane, Confagricoltura, Rete Imprese per l'Italia e sindacati, per arrivare a un nuovo accordo sulla mitica, mitologica, quasi produttività. L'Italia dal 2001-2011 ha visto crescere la sua produttività dell'1,2%, nell'area europea è cresciuta dell'11%, 10 volte tanto, in Germania del 26%, 26 volte tanto. Ieri un primo incontro, domani un altro, dicevo, l'obiettivo è di arrivare alla scadenza chiesta dal governo, cioè di avere un accordo tra le parti sociali entro il 18 ottobre. Ma parleremo anche degli scandali e degli sprechi, della cattiva gestione del denaro pubblico. Avremo ospite l'ex, ricorderete la vicenda di Gallarate? Ne parlammo la settimana scorsa. Il comune di Gallarate ha una municipalizzata che gestisce gas, elettricità, che sostanzialmente è riuscita a creare un buco enorme dal punto di vista della gestione vera e propria, perché è la società che per azioni che sostanzialmente distribuisce gas e anche acqua, fognature, servizio di igiene urbana, in 10 anni è passata da 12 milioni di euro di attivo, di avanzo, a un rosso di 26 milioni di euro. È l'amministrazione passata quella che ne ha la responsabilità. Ci sono cose che a nostro avviso gridano vendetta, i nuovi dirigenti hanno scovato infatti anche 50.000 euro di spese nei ristoranti per la rappresentanza, oltre che l'acquisto di 3 auto di grossa cilindrata per i dirigenti stessi. La rappresentanza della municipalità di Gallarate, con tutto il rispetto, obiettivamente ci fa un po' così, ci lascia un po' perplessi spendere 50.000 euro per la rappresentanza. Ma avremo ospite l'ex presidente in carica fino a luglio 2011 della municipalizzata, Nino Caianiello. E poi vi sarà purtroppo il racconto quotidiano di quello che sta emergendo dalle varie inchieste. 349-238-6666 per i vostri sms, e rapidamente le altre notizie in breve. Mentre il petrolio è in leggero rialzo a New York a $92,27 al barile, sono scattati i primi rialzi del prezzo della benzina. L'Eni ha deciso un ritocco di un centesimo a 1,902 euro al litro per la benzina, e la Shell ha rivisto al rialzo sia la verde, un centesimo e mezzo a 1,913 euro, che il gasolio, anche qui un centesimo e mezzo a 1,813 euro. Dicevamo dei buoni dati che arrivano dagli Stati Uniti. La disoccupazione, le richieste di sussidi per la disoccupazione sono ai minimi da 4 anni. La scorsa settimana infatti le richieste sono calate di 30.000 unità, scendendo a 339.000, ed è un livello appunto che non si vedeva da 4 anni a questa parte. Ed è interessante notare che quando Barack Obama si candidò alla Casa Bianca nel 2008, ci fu una banca, Goldman Sachs, che finanziò più di tutte la sua campagna elettorale. Quest'anno però la stessa Goldman Sachs, come altre banche d'affari, hanno deciso in maniera netta di appoggiare Mitt Romney. E questo perché dicono che Barack Obama ha attaccato personalmente, anche a livello di corporate, queste banche d'affari. Non è solo Goldman Sachs avere voltato le spalle ai democratici. Pensate che nel 2008 JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs versarono 3 milioni e mezzo di dollari per la campagna. Quest'anno hanno raccolto solo 650.000 dollari per la campagna di Obama e invece 3 milioni e 3 per Romney. È ovvio che insomma c'è l'idea che Mitt Romney difenderà, o potrebbe difendere meglio di più, le banche d'affari americane. Ricordo che hanno generato la crisi finanziaria del 2008 più di quanto non possa fare Barack Obama, che tra l'altro dal nostro punto di vista ha avuto un atteggiamento molto molto morbido nei confronti delle banche d'affari americane. Ancora aspettiamo il ritorno del Glass-Steagall Act, cioè insomma della separazione tra banca che raccoglie risparmi dei cittadini e banca che fa investimenti rischiosi, speculativi, comunque che fa investimenti. Lo spread italiano è in calo, poco fa 350 punti base, quello spagnolo, quindi la differenza tra quanto costa alla Spagna indebitarsi rispetto a quanto non costi alla Germania, è a 424 punti. La Spagna ha visto il suo voto abbassato di due scalini a BB-, è il livello subito prima del livello junk, del livello spazzatura, con prospettive negative. E invece in Grecia è iniziato una non-stop di incontri tra il governo e la Troica, ossia l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Si incontreranno ogni giorno per riuscire a chiudere prima del vertice europeo del 18-19 ottobre il pacchetto dei tagli al bilancio per il biennio 2013-2014. Intanto però in Grecia continua a peggiorare rapidamente la disoccupazione. A luglio ha sfondato la quota e la soglia anche psicologica del 25%, ossia c'è un disoccupato ogni 4 persone attive, ed è il nuovo massimo storico in Grecia. Pensate che un anno fa, no, questo per dire anche di che effetti stiano avendo le cure da cavallo somministrate alla Grecia. Un anno fa la disoccupazione in Grecia era al 17, quasi al 18%, che è già altissima. Adesso siamo al 25%. Per cui da 17 disoccupati su 100 attivi si è passati a 25 disoccupati su 100 attivi, lavoratori attivi. E se poi si guarda il dato che riguarda i giovani, quindi la fascia statisticamente tra i 15 e i 24 anni, i disoccupati sono il 54%. E oggi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino scrive che per aumentare la crescita anche in Grecia occorre liberalizzare e riformare il lavoro. La Banca Centrale Europea, il mercato del lavoro, comunque plaude alle correzioni poste dalla Grecia sul costo del lavoro e sull'andamento delle partite correnti. E la BCE fa sapere di essere pronta comunque a partire con gli acquisti dei titoli di Stato dei paesi in difficoltà, sempre che le condizioni imposte dai programmi siano integralmente rispettate. E la Consob oggi, con uno studio, ufficializza quanto noi ripetiamo modestamente da anni, ossia che da un anno, se si va a guardare lo spread italiano fino ad aprile del 2011 era 170-180 punti ed era fermo così da 3 anni, cioè da quando è scoppiata la crisi. Non è che il paese sia peggiorato nel frattempo, quindi la Consob oggi con uno studio certifica in qualche modo che metà del nostro spread è dovuto all'effetto contagio, cioè all'ipotesi che dopo la Grecia possa toccare al Portogallo, alla Spagna e quindi anche all'Italia, ma non ai fondamentali dell'economia italiana. Il Tesoro oggi ha collocato sul mercato comunque 3 miliardi e 750 milioni di euro di BTP a 3 anni, tutti collocati. Il tasso però è salito dal 2,75% al 2,86%. Ancora due notizie, poi arriveremo invece alle dichiarazioni del ministro Grilli sulla legge di stabilità, ne parliamo nella seconda ora del programma. Però oggi, come vi ricordavano i nostri GR, la Corte Costituzionale, con una sentenza depositata proprio oggi, ha deciso che i tagli previsti dal decreto legge sulla manovra economica 2011-2012, l'ultima fatta dal governo Berlusconi, per i dipendenti pubblici con stipendi superiori ai 90.000 euro, praticamente era un meno 5% per la parte eccedente questo importo, che diventava un 10% in meno per chi aveva redditi superiori ai 150.000 euro, è incostituzionale, perché non consiste in una mera riduzione del trattamento economico, ma introduce un vero e proprio prelievo tributario a carico dei soli dipendenti pubblici. No, una battuta la cito però del ministro Grilli, che ha detto: per l'Italia è importante proseguire sulla strategia di rigore, per la crescita bisogna ancora sudare. No, io faccio presente che il paese sta sudando, sta anche sudando freddo, ministro Grilli. C'è qualcuno che suda un po' di meno, no? C'è poi chi non suda proprio perché non c'è più lavoro. Vabbè. E adesso arriviamo alla rubrica "Ma cos'è questa crisi?" e anche alle alcune amenità, per modo di dire, sulle regioni italiane. Prima di tutto però vi ricordo che a oggi alle 18.30, Viale Monterosa 91, ci sarà la presentazione di Disperati Mai, d'iniziativa di Radio 24, che raccolse migliaia purtroppo di lettere di artigiani, piccoli commercianti, piccoli industriali, a un passo dalla disperazione, ecco perché la chiamammo Disperati Mai, comandava l'attività economica, per le richieste che arrivavano dal fisco, per i fornitori che non pagavano, per la pubblica amministrazione che era in ritardo con i pagamenti, per un mondo che stava cambiando sotto i loro piedi e quindi diventava anche un problema di orgoglio, se vogliamo, nei confronti del resto della comunità e della collettività. Dicevo, sono diventati un film con il London Short Film Festival, hanno realizzato 5 cortometraggi dalle lettere che voi avete mandato alla D24 e anche con la collaborazione con il Festival delle Lettere di Milano. Saranno presentati oggi questi video, ripeto, alle 18.30 qui a Sole 24 Ore all'Auditorium, e saremo a presentarli assieme ai registi e racconteremo anche le nostre esperienze. Vi faccio ascoltare lo spot di questa iniziativa. La crisi morde e fa male. Mi sono ritrovato in mezzo ad una strada e con i soldi da recuperare. È la mia vita che si trascina senza alcuno spiraglio di miglioramento. Non voglio lasciare alle mie figlie la vergogna di aver avuto per padre un fallito. Le banche non ci davano più ascolto. I miei titolari hanno la faccia di quelli che ogni volta che ti vedono vogliono chiederti scusa. Abbiamo lottato fino all'ultimo, ma non ce l'abbiamo fatta. Sarò costretto a farla finita con tutto e tutti. Ci siamo mangiati in pochi mesi quanto faticosamente accumulato in anni di lavoro. L'Italia non è un posto dove passare il futuro. Hanno lasciato cadere la mia azienda, ma io rimango in piedi e combatto. Vorrei solo che i miei figli avessero futuro migliore. Tutta la nostra solidarietà agli imprenditori, artigiani, commercianti che continuano a scrivere e hanno continuato a scrivere in questi mesi. Non posso però, mi rendo conto che lo stacco, il contrasto sia forte, non raccontare altre amenità della gestione allegra dei soldi di tutti gli italiani. Eh sì, perché mentre anche l'Unione Europea prende atto che dopo che l'ha fatto la Croce Rossa spagnola, che l'ha fatto Save the Children in Gran Bretagna, che l'Europa sta attraversando un periodo di tale difficoltà da diventare essa stessa emergenza per i poveri, e oggi ha destinato 500 milioni di euro per il programma europeo di aiuti alimentari a favore degli indigenti europei, di cui beneficeranno 18 milioni di persone in 19 stati dell'Unione Europea. C'è un mondo a parte, e oggi mi tocca tornare sulla regione Sicilia. Altri 6 esterni assunti come dirigenti, perché non bastavano 1600 dirigenti. Raffaele Lombardo, 1600 dirigenti assunti, cioè già assunti. Ieri abbiamo raccontato che avete assunto un altro esterno come direttore del consorzio Autostrade Siciliane, con un contratto che varrà per 5 anni tra i 700.000 e il 1 milione di euro. Ovviamente aveste preso uno dei 1600 dirigenti della regione, si sarebbe risparmiato almeno il contratto verso l'esterno. No, oggi altre 6 persone assunte sono distaccati perché provengono da altri enti, lo hanno segnalato i sindacati, e vogliono fare una causa contro la regione Sicilia, che ricordo è tecnicamente, da un punto di vista del bilancio, chiaro che poi paga pantalone e il bilancio viene ripianato, ma è tecnicamente fallita. Se fosse un'azienda con quel bilancio lì porterebbe libri in tribunale. Allora, dopo che spero di avere una smentita, e vedremo anche la verità di Kai Aniello sulla gestione, io vorrei portarlo come caso emblematico, sulla gestione di una municipalizzata come quella di Gallarate, e noi diamo a tutti la possibilità di replicare, di rispondere. Andrei adesso subito sul meteo e la pubblicità, poi la borsa e poi anche gli altri temi del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Allora andiamo subito sulla borsa e poi i temi a cavallo tra sprechi pubblici italiani, sprechi degli enti e invece situazione europea. Dicevo, buona la giornata nonostante l'abbassamento di voto al debito spagnolo, perché l'asta italiana è andata bene e gli spread sono leggermente ridiscesi. Il fatto sta che oggi Milano guadagna l'1,26%, Parigi l'1,5%, Francoforte l'1%, Londra lo 0,95% e borsa sia. Dicevo, bene le banche, e, Popolare di Milano più 4,14%, Monte dei Paschi più 4%, Unicredit più 3,90%, Intesa San Paolo più 3,5%, Ubibanca più 2,60%, Banco Popolare più 2,5%. Qui immagino Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Sia il dato USA ma soprattutto l'asta dei BTP italiani. Sì, e anche diciamo un po' di operatori che hanno deciso di acquistare questi titoli che dopo le ultime due sedute erano più a buon mercato, soprattutto le banche che avevano pagato diciamo due sedute abbastanza grigie per i listini europei, e così non è un caso che le più acquistate siano i titoli finanziari sia a Milano che in Europa. Ancora, sui titoli non bancari invece spicca Autogrill più 3,20%. Percento, ma anche Fiat più 2,40%. Eh sì, Autogrill è favorita anche da un buon andamento in Europa, diciamo di questo settore in borsa, e poi invece Fiat è diciamo un rimbalzo vero e proprio, visto che il titolo oggi guadagna il 2,4%, del 2,38% per l'esattezza, veniva da alcune sedute diciamo piuttosto difficili, legate sia alla situazione del mercato italiano, sia al downgrade operato da Moody's, sia anche a quell'allarme sulla liquidità che veniva diciamo riportato da indiscrezioni di stampa che riferivano di un faro Consob acceso proprio su questo tema per quanto riguarda il lingotto. Ancora Eni debole, ma non tanto per il petrolio, meno 0,68%, quanto per le dichiarazioni di Scaroni. Eh sì, Scaroni ieri ha fatto presente che i contratti take or pay, che sono diciamo i contratti che i principali operatori energetici utilizzano per acquistare gas, si stanno rivelando sempre più onerosi, e ha ammesso insomma che su questo fronte diciamo c'è una debolezza. Non è una novità, ma Eni diciamo io veniva anche da una seduta ieri molto positiva in cui era stata favorita dal fatto che si era concluso il collocamento della quota del 3,3% in mano a CDP, e oggi gli operatori hanno deciso di servire il titolo. Ancora tra titoli minori, tra virgolette, minori solo come capitalizzazione di borsa, segnala oggi debole anche l'automatica meno 1,30, mentre va bene Mediobanca più 2,50, Pirelli più 2,50, Mediaset più 2,40, Luxottica più 2,30%, Mediolanum più 2,20, Diasorin più 1,90 e l'1,70 guadagna invece la Popolare Emilia Romagna, euro a quota 1,2932, quindi sempre lì, sempre intorno ad area 1,30. Migliore e peggiore in assoluto, Stefanel più 27,29, Zucchi più 21% e Carrefour più 7,46%. Fronte opposto, Prelios meno 4,83%. Novità su Prelios? Sembra che diciamo, il CDA ha deciso oggi di dare un periodo di esclusiva all'offerta di Caputi. Ma Caputi è lo stesso Caputi indagato? No. Non lo so, bisogna conoscerlo bene. Su una cosa del genere preferirei. No, vabbè, adesso verifichiamo. Comunque, diciamo che dal punto di vista borsistico si è esaurito l'AP speculativo, quindi sostanzialmente ciò spiega con la scelta diciamo per l'offerta di Caputi, che poi ovviamente adesso si avviano delle offerte, una trattativa esclusiva, bisognerà vedere se si chiuderà. Comunque si chiude l'AP speculativo e il titolo un po' cale fisiologico. E poi Movimax, di cui non parliamo quasi mai, è in pregiro. Sì, perché Movimax, insomma, ieri in pregiro ha fatto un balzo, per cui ha annunciato un altro titolo della sua library, ha conquistato la prima posizione tra i film più scaricati su Apple iTunes, e quindi il titolo, che comunque ha diciamo, un flottante abbastanza limitato, e, diciamo, ha guadagnato. Cioè la sua library, la sua diciamo, collezione di video è la più scaricata su Apple Store, giusto? Sì, assolutamente sì, su Apple iTunes Store. E per quanto riguarda Impregilo, invece, ieri il titolo aveva guadagnato molto, è arrivato a guadagnare il 4%, anche sulla possibilità che ricevesse 150 milioni milioni come indennizzo per la mancata realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, un'eventualità questa che sarebbe stata contenuta nella famosa legge di stabilità, invece come spesso accade poi queste leggi vengono rifinite fino all'ultimo, vengono cambiati dei dettagli e questo dettaglio è sparito e quindi oggi diciamo Impregilo ha fatto più 0,3%. Beh, io a me non mi dispiace per Impregilo, mi dispiacerebbe invece come cittadino dover pagare l'indennizzo, poi se è legalmente giusto andrà pagato per la progettazione del ponte sullo stretto, un'opera assolutamente inutile secondo noi, l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Tanto si può fare a nuoto, no? Beh, sì, fare la battuta su Grillo, vabbè, io preferirei farla anche in maniera normale o avere delle reti ferroviarie già pronte in Sicilia, perché sennò poi arrivi sulla rete ferroviaria siciliana che esattamente non è come il TGV in Francia. Grazie, grazie a Ceo Condine. Noi invece cambiamo tema e ci occupiamo del tavolo di ieri sulla produttività. Dicevamo la produttività, questo termine quasi mitologico, che insomma in realtà è il rapporto tra il valore della produzione realizzata e il volume o la quantità del lavoro. Detto in altre parole, il numero degli occupati e o le ore lavorate impiegato per produrre un bene. Allora, due le strade per aumentarla classicamente: produrre articoli di maggior valore, quindi a parità di ore di lavoro uno ha un prodotto con maggior valore, oppure ridurre la quantità del lavoro impiegata, oppure anche, che vuol dire per converso, lavorare di più con una produzione più alta di pezzi. Allora, fatta 100 il valore italiano, la media europea è di 105, la Francia 104, questa è la produttività per ora di lavoro, il Portogallo 105, la Germania 106, la Spagna 109, la Polonia 117. Ora vedete che alcuni paesi hanno un'alta produttività pur non essendo i paesi più ricchi dell'Europa. La cosa importante è che nel periodo 2001-2010 la produttività oraria del lavoro è cresciuta dell'1,2% in Italia, cioè in 10 anni dell'1,2%, mentre nell'intera area europea è cresciuta dell'11%, quindi 10 volte tanto, e in Germania del 26%, quindi 26 volte tanto. Ieri sera è iniziato il confronto tra imprese e sindacati per cercare un accordo appunto sulla produttività, confronto e accordo chiesto insistentemente dal governo. La discussione proseguirà poi domani mattina con un tavolo tecnico. Chiediamo alla collega del Sole 24 Ore che sta seguendo tutto il tavolo aperto tra datori di lavoro, quindi Confindustria ma non solo, e sindacati, Nicoletta Picchio, buonasera. Buonasera. A che cosa si è giunti ieri? Abbiamo visto delle dichiarazioni ieri in tarda serata di Susanna Camusso, la discussione è avviata ma non c'è una data sacra, invece Raffaele Bonanni ha detto resta, il segretario della CISL, resta l'obiettivo di un accordo entro il 18 ottobre come chiesto dal governo, Angeletti ha detto non sono stati discussi i particolari, il segretario della UIL, e il presidente dell'ABI, perché partecipa oltre che Confindustria anche l'ABI, le banche italiane, o la rete imprese per l'Italia, Confagricoltura e quant'altro, dicevo il presidente dell'ABI Mussari ha detto siamo fiduciosi su un'intesa con tutti, ma qual è l'oggetto del contendere? Quello che spiegavi proprio tu nella tua premessa, e quindi di aumentare la produttività del lavoro nella chiave che tu dicevi tra le varie casistiche, quella di lavorare di più. Infatti uno degli argomenti di cui si è parlato ieri sera a cena è stato proprio quello di aumentare la flessibilità degli orari, aumentare l'estensione delle ore lavorate all'interno della settimana, poter contare sulla necessità di produzione quando poi gli ordini ci sono in questa fase dove c'è una visibilità scarsissima e le imprese sono a corto di ordini, e poi anche di nel contratto nazionale c'è questo parametro che è l'IPCA, che è insomma il nuovo parametro europeo che ha preso il posto dell'indice Istat nella riforma del 2009, che è ancora un automatismo, è quell'automatismo che Monti poi ha denunciato in più riprese in queste ultime settimane. Quindi si tratta di mantenere comunque una sorta di tutela del salario a livello nazionale, ma di unirla comunque a dei fattori di flessibilità, di produttività flessibilità, di orari di lavoro, anche di poter utilizzare, dicevano ieri, come esigenza delle imprese, i lavoratori anche con delle mansioni ridotte, proprio per aumentare questa produttività del lavoro, e poi soprattutto di cercare di spostare per chi fa la contrattazione aziendale, e non la fanno tutti, quanto più risorse possibile a livello aziendale, che proprio in azienda dove può avvenire questo scambio virtuoso tra più salario, più competitività, più produttività, e questo senza mettere appunto le aziende fuori mercato, anzi migliorando proprio il modo di produrre, quindi essendo più competitivi sui mercati internazionali, che appunto noi competiamo con il mondo. Ecco, Nicoletta, da questo punto di vista però, come spiegavo, insomma, o si produce un articolo di maggior valore, e anche questo a parità di ore lavorate hai un valore aggiunto più alto, per cui non produci la scarpa cinese, tanto ormai non le facciamo più, ma produci una scarpa di lusso. Oppure, questa è già un'evoluzione che sta avvenendo, esatto, nella nostra industria. Esatto, oppure comunque riduci la quantità di lavoro impiegata per ogni pezzo, che vuol dire che a parità di ore di lavoro ne produci di più, perché è l'altro aspetto. Ecco, questo da un punto di vista contrattuale come può essere tradotto? Perché il produrre un bene a maggior valore aggiunto è una scelta aziendale, non è una scelta di contratto tra il datore di lavoro e i sindacati, è una scelta dell'imprenditore, delle linee di impresa, delle strategie future. Per cui la trattativa su cosa andrà a orientarsi? Sul secondo aspetto? Tutto sull'aspetto della flessibilità, della flessibilità lavorativa maggiore che ci possa essere. Volevo fare ricordare una cosa, che i tedeschi, che adesso a maggio i metalmeccanici hanno dato un aumento clamoroso, che è stato del più 4,3%, che ha fatto scalpore, sono venuti da una precedente tornata contrattuale, quella del 2008-2010, in cui hanno consentito i sindacati hanno consentito alle aziende in crisi di non pagare le varie tranche contrattuali all'interno della durata del contratto, oppure di posporle dal punto di vista temporale. Non solo, questo contratto è stato prolungato per un altro anno senza che i lavoratori avessero un aumento della base dello stipendio, ma soltanto con una tantum. Allora, dopo 4 anni di faccia a terra, sintetizziamo così, dove appunto ai lavoratori sono stati richiesti sacrifici proprio perché le imprese erano in difficoltà, ora che le imprese metalmeccaniche tedesche sono riuscite a recuperare competitività, hanno dato questo aumento del 4,3%. Cioè, noi ci siamo limitati ad osservare quest'ultimo aspetto e pochi però sanno da dove arriva. Ecco, quello che stanno credendo le imprese in questo momento, e abbiamo anche in corso il contratto dei metalmeccanici, va un po' in questa chiave. E quindi prendere atto della difficoltà del momento, aumentare la produttività e poi eventualmente arrivare a premi anche sulla produttività. Quello che ha fatto e le va riconosciuto la Germania in questi anni, in accordo con i sindacati. Grazie Nicoletta Picchio. Il traffico, poi un caso virtuoso di accordo aziendale, ogni tanto ne portiamo in trasmissione, quando si riesce ad avere un accordo per cui non ci sono esuberi, ossia non si licenzia, e questo lo si riesce a fare aumentando la produttività complessiva. 349-238-6666, poi la pagina molto lunga di come si gestisce o non si gestisce una municipalizzata. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo, in tema di lavoro e produttività, domani il nuovo incontro, alcuni di voi ci hanno chiesto perché la data del 18 ottobre, perché il 18 ottobre inizia il Consiglio europeo e Mario Monti vorrebbe arrivare anche con questo accordo a dimostrare che l'Italia sta facendo gli sforzi anche sulla produttività del lavoro, oltre che sulle pensioni e sull'aumento delle tasse per tenere i conti in ordine. C'è chi mi fa notare che ho detto 26 volte, no, chiaramente la nostra produttività è aumentata in 10 anni dell'1%, quella tedesca di una percentuale 26 volte superiore, non è 26 volte in più, è del 26%. Comunque c'è un caso virtuoso che riguarda proprio un'azienda presente anche in Italia, ossia dove si chiama Wind, la conoscete tutti, fa telefonia. I 1800 lavoratori che rischiavano di perdere il proprio posto per quella che si chiama esternalizzazione delle funzioni resteranno assunti, con il loro posto sarà tutelato, dovranno fare dei sacrifici. e l'accordo è stato firmato con le principali sigle sindacali, non ci sarà quindi nessuna esternalizzazione fino al 2017. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Wind Italia, Massimo Ibarra. Buonasera. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Allora, come avete ottenuto questa, diciamo, soluzione, questa quadratura del cerchio? Noi come Wind abbiamo siglato ieri con le organizzazioni sindacali, come diceva appunto lei, un accordo che abbandona definitivamente l'esternalizzazione dei 1700 dipendenti. Sono dipendenti che si occupano della gestione, manutenzione e controllo del network, e al posto di questo progetto, facendo leva invece sulla solidarietà e il grandissimo senso di appartenenza di tutti i dipendenti Wind, abbiamo messo in piedi un programma, direi molto innovativo anche dal punto di vista delle relazioni industriali, dove lavoriamo sul recupero dell'efficienza, produttività e nonché recupero anche di tempi per quanto riguarda la reperibilità e, insomma, temi che riguardano fondamentalmente la maggiore flessibilità dell'azienda. Che cosa abbiamo fatto in sostanza? In sostanza abbiamo chiesto a tutti i dipendenti, a tutti i dirigenti, al top management dell'azienda, me compreso, di fare un piccolo sacrificio per quanto riguarda il premio di risultato, nel senso che il premio di risultato questa volta l'abbiamo legato in maniera reale, vera, alla profittabilità dell'azienda, all'EBITDA e ai risultati di cash. Questo significa che inizialmente forse ci sarà una riduzione per quanto riguarda il premio di risultato, ma successivamente, essendo appunto legato al vero risultato di profittabilità dell'azienda, potrebbero esserci anche delle sorprese molto positive. Infine abbiamo lavorato su una nuova organizzazione processi del network, la rete, perché poi è l'asset più strategico che abbiamo in questo momento nei confronti della clientela finale, e recuperando capacità per maggiore per numero di ore che potranno essere dedicate per il monitoraggio della rete, quindi di conseguenza miglioramenti della qualità del network, e non solo, ma anche capacità che può esserci molto utile per internalizzare alcune attività, quindi non esternalizzare ma addirittura internalizzare. Infine abbiamo modernizzato alcune modalità di gestione del tempo, delle ferie, dei permessi, in modo tale da rendere l'azienda ancora più flessibile. Quindi in questa maniera siamo riusciti fondamentalmente a recuperare quell'efficienza che inizialmente il progetto di esternalizzazione avrebbe portato all'azienda. Ecco, un'ultima domanda: che risparmi porterà questa efficienza, visto che voi dimostrate che si può migliorare l'efficienza dell'azienda e quindi non ricorrere a esuberi, esternalizzazioni, come le chiamate in maniera un po' eufemistica? Stiamo parlando di risparmi molto significativi, adesso non le dico esattamente di quanto si tratta, però stiamo parlando di importi molto importanti, significativi, che si riescono, come giustamente diceva lei, a portare facendo un discorso molto serio all'interno dell'azienda, ma anche nei confronti dei sindacati, perché poi alla fine, nel momento in cui un'azienda come Wind, che ha performato molto bene sul mercato e ha intenzione di continuare a performare bene sul mercato, deve difendere il suo asset strategico, quindi non si esternalizzano processi o comunque elementi core della propria attività, quanto piuttosto si chiede a tutti di fare un piccolo sacrificio per un futuro ancora più brillante. Grazie, in bocca al lupo a Massimo Ibarra, amministratore delegato di Wind Italia. Rivederla, grazie. Allora, adesso inizia una pagina che molti di voi conoscono, riguarda gli scandali che stanno sommergendo le amministrazioni locali, regionali, ma anche comunali, con un caso che portammo in trasmissione la settimana scorsa. Il caso riguardava la municipalizzata di Gallarate, provincia di Varese, che è passata in 10 anni da un attivo di 12 milioni di euro depositati in banca a un rosso di 26 milioni di euro. È sotto accusa Nino Caianiello, ex presidente della municipalizzata fino a luglio 2011, esponente del PDL in provincia di Varese. Abbiamo ospitato il 3 ottobre il sindaco, anzi l'assessore attuale alle attività produttive del comune, che ci ha spiegato tutto questo. L'ha fatto la giunta precedente, la Lega di Levvero, ricordò con correttezza, uscì da quella giunta. I casi: l'albero di Natale da 20.000 euro, i 50.000 euro quasi di ristoranti per spese di rappresentanza, l'acquisto di 3 auto di grossa cilindrata per i dirigenti, la moltiplicazione di incarichi e poltrone, la costruzione di una piscina a Saltrio, confine con la Svizzera, 138.000 euro per strenne natalizie per dipendenti, 200.000 euro per sponsorizzare la Fondazione Teatrale Cittadina. E poi le spese per l'appalto delle pulizie, che è strano che chi gestisce le pulizie debba avere un appalto per le pulizie, 400.000 euro, oggi ne costano 100.000. È in collegamento con noi Nino Caianiello, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Dunque, lei poi è stato licenziato, è ammesso per vie legali, tra l'altro è stato anche condannato a un anno e quattro mesi per peculato, e con l'interdizione dei pubblici uffici. Caianiello, le chiedo 5 minuti di pazienza perché abbiamo un GR e poi vorrei sentire chiaramente la sua versione dei fatti. 349-238-6666 per i vostri SMS. Abbassare potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forti, ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, drag più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag più. Allora, 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, siamo in collegamento con Nino Caianiello, giustamente ci ha chiesto di poter intervenire, ex presidente della municipalizzata di Gallarate, che come ricordavo in 10 anni è passata da un attivo di 12 milioni di euro a un rosso di 26 milioni di euro, e ricordavo un insieme di cose. Allora Caianiello, visto che noi diamo spazio a tutti, mi dica una prima cosa: come si fanno a fare 50.000 euro di note spese al ristorante per spese di rappresentanza se uno gestisce una municipalizzata a Gallarate che fa distribuzione di gas, acqua e poi pulizie, servizi di igiene urbana? Bene, rispondo subito, dottore. Premesso che le cifre che le sono state trasmesse a me pare che fanno riferimento a un triennio. Sì. E bisognerebbe anche capire chi ha fatto queste spese di rappresentanza. Beh, ce lo dica lei, visto che era lei a presidente. Ce lo dico, no? Io, infatti. Siccome non è stato detto da chi ha dato i numeri precedentemente, non mi riferisco a lei, mi faccio solo notare che il sottoscritto, in quanto presidente e a volte amministratore delegato e poi anche come direttore generale, spesso e volentieri faceva cena di lavoro con lo staff dell'azienda. Okay, allora, se si va in un ristorante e si spende in 2-3 persone 40 euro o barra 10-15 euro a persona, penso che una colazione di lavoro sia compatibile per quello che è i costi anche di mercato. Beh, io non voglio sindacare, ma perché facevate tutte queste cene di gruppo, pranzi di gruppo? Ci si può vedere anche con un caffè. Colazione di lavoro perché noi non interrompevamo, quando interrompevamo l'attività di lavoro, spesso e volentieri ci incontravamo anche con i dirigenti del comune, in particolare con il ragioniere capo, che purtroppo non c'è più, e insieme al direttore generale andavamo in un ristorante e spesso e volentieri spendevamo pro capite di... Allora le do io una best practice: siccome poi il costo complessivo è 50.000 euro, a sto punto tanto valeva interrompere per un po' con un caffè, tanto è sempre lavoro, e poi ognuno si mangia un panino, magari avevate anche delle convenzioni con il ticket resto. Ma mi spieghi altre cose. I 130... Per un normale dipendente dell'azienda noi davamo un ticket restaurant di 7 euro e mezzo e ogni dipendente spende mediamente 20 euro. Ho capito, come noi, uno mangia un panino. Però mi dica questo, 140.000 euro di strenne natalizie per i dipendenti e 200.000 euro per sponsorizzare la Fondazione Teatrale Cittadina, oltre a 20.000 euro per l'albero di Natale, anche questo diciamo rientra nelle normali attività? Non risulta... Lei si deve mettere un posto coperto perché la stiamo perdendo, però Caianiello, aspetti. Sì, io le ho già mandato delle note dove già ci sono alcune risposte, però è giusto che io lo dica in trasmissione. Certo. Noi non abbiamo mai speso, non mi risulta di aver mai speso per un albero di Natale 20.000 euro. Per quello che riguarda le spese di sostegno a una fondazione culturale, su anche indirizzo e richiesta dell'amministrazione comunale, che era sotto il 99,99%, noi abbiamo temperato a sostenere questa iniziativa elettorale. Le strenne natalizie? No, mi scusi, non volevo capire. Le strenne natalizie, le dico che bisogna capire anche qui se fanno monte a 10 anni di attività o se è una cosa annuale. A livello annuale non sono mai state spese quelle cifre lì. Le voglio dire che annualmente, per mia iniziativa, ai circa 250 dipendenti dell'azienda, quando ho terminato, perché quando abbiamo iniziato nel 2001 c'erano 190 dipendenti, siamo arrivati a 250, noi davamo 2-3 bottiglie di vino a Natale per come strenna a ogni dipendente. Quindi erano intorno alle 2-3 mila euro ogni Natale negli ultimi 3-4 anni di attività. Se vi sono altre strenne natalizie riferite a omaggi fatti ai consiglieri comunali, alle istituzioni e così via, bisogna quantificare se in un anno o in 10 anni, dottore. Mi faccio... qualcuno dovrebbe puntualizzare. Beh, se non ce lo dice lei, però stiamo ragionando nel nulla. Io le ho già detto che... Quindi le spese per le strenne natalizie erano 2-3 mila euro. Senta, prendo 60 mila euro. Sì. Però posso permettere di... No, finisco una cosa e poi le lascio parlare. L'appalto per le pulizie della sede. Allora, 400.000 euro. Oggi il servizio è garantito con 100.000 euro. Allora, tra l'altro, a me fa un po' specie che una municipalità che si occupa di pulizia, di nettezza urbana, debba appaltare all'esterno. Sarebbe come se l'ENI appaltasse all'esterno l'approvvigionamento di petrolio in casa. Però... per i suoi dipendenti, di benzina per i suoi dipendenti, però mi dica, adesso costa un po' di meno, no? Sì, probabilmente costerà un po' di meno, perché sono state tutte le ore di servizio, io non lo so, perché questa amministrazione non ha trasmesso, probabilmente, non tanto a me che sono un privato cittadino, ma anche ai consiglieri comunali una serie di informazioni che hanno richiesto. Però stando al vero a quello che hanno detto, probabilmente, da quello che mi risulta, Vox Populi hanno ridotto ovviamente le ore di prestazione di pulizia. Cioè, è più sporca la sede della municipalizzata? Probabilmente sì, basta sentire i dipendenti. Però ovviamente lasciandoli anche un po' in santa pace. Però mi permetto di dire un'altra cosa. Come questa cosa è stata detta in modo anche simpatico nella precedente puntata, ecco. I dipendenti dell'igiene ambientale hanno un contratto che non gli permettono di andare a pulire, tra virgolette, i corridoi e, tra virgolette, i servizi igienici dell'azienda. Ma questo non solo a Gallarate, ecco. Se lei vede un'altra ex municipalizzata, provi a vedere se un netturbino, come si usa, va a pulire i corridoi oppure va. Ecco. Mi dica sono una... due cose diverse. Mi dica una cosa, però, Caniel. Adesso io dovrei prendere l'attuale presidente, mettervi a confronto, facciamo una puntata solo sulla municipalizzata di Gallarate. Però una cosa è inequivocabile: in 10 anni la municipalizzata di cui lei è stato presidente fino a luglio del 2011 è passata da 12 milioni di attivo a un rosso di 26 milioni di euro. Allora lì le accuse anche di non si capisce questi 38 milioni di euro di investimenti. Che risultati abbiano avuto? La città di Gallarate ha 50.000 abitanti. Allora, possiamo partire dall'ultima riga del bilancio? Cioè, una missione di colpa, o di colpa nel senso di responsabilità da manager. Se tu passi, se una famiglia avesse 12.000 euro sul conto corrente in banca e passa dopo 10 anni a 26.000 euro di rosso con la banca, a parte che non te li fanno fare, ma voglio dire, forse il capofamiglia qualche responsabilità ce l'avrebbe, o la moglie, non lo so. Mi dica. Sì, le rispondo al volo. Quello che lei dice è il conto finanziario, cioè in banca siamo a meno 38. Bene, noi abbiamo fatto investimenti per 60 milioni di euro. Quindi c'è una differenza tra i 38 milioni che lei dice ai 60 che abbiamo realizzato, perché abbiamo realizzato opere, non è che i soldi che abbiamo presi li abbiamo buttati dalla finestra. Quei 38 milioni, tra cui anche la piscina a Saltrio ai confini con la Svizzera. La piscina a Saltrio fa riferimento a un'attività che era in base all'espansione che AMSC stava proseguendo sul territorio della provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato. Il comune di Saltrio ci chiese nel frattempo di gestire la piscina, non di costruirla, di gestire la piscina che aveva realizzato, e noi che stavamo trattando per la gestione del servizio idrico, che è uno degli asset più importanti dell'azienda, avevamo preso in gestione la piscina e non è quella cifra che le hanno detto. Vabbè. Allora, le cifre, facciamo una cosa. Le cifre, una mazza. E le cifre sono tutte sballate, quelle che abbiamo noi, mi sembra di capire. Ma mi dica una cosa, come si passa... Da lei, non le da lei. No, vabbè, quelle che abbiamo... Ma quelle che... Allora, mi scusi. Si passa da 12 milioni di attivo a 20 milioni di buco. Secondo lei, visto che era presidente, come avete fatto? Con gli investimenti? Ho capito, ma l'investimento non è che lo posso fare, cioè, bisogna avere anche il pareggio di bilancio, non è che dico allora costruisco un ponte di Brooklyn a Gallarate, ho fatto l'investimento e poi... Mi dica. Mi perdoni, io quando faccio un investimento vado in banca e la banca, in base al tipo di investimento che faccio, mi finanzia. Allora noi abbiamo realizzato un parcheggio di 350 posti interrati, abbiamo acquistato un 7.000 metri quadri di ex Enel, l'ex Enel di Gallarate, dove abbiamo messo i servizi in centro ai cittadini e ha realizzato degli uffici. Di nuovo in diretta. Allora, Canello, mi vuole rispondere a questa domanda? Cioè, io ho capito che voi avete fatto investimenti, però gli investimenti non possono essere fatti a prescindere dal conto economico. Lei si assume la responsabilità di dire, ha qualche responsabilità nel dire abbiamo portato la municipalizzata di Gallarate a un rosso, da un attivo di 12 milioni a un rosso di 20, sì o no? Guardi, i numeri sono lì, parlano chiaro, ma bisogna anche dire che cosa è stato quindi fatto, sì. Perché, mi scusi dottore, se viene detto si passa da 12 e c'è un buco di 38, dice ma questo che mi ha fatto dei soldi? No, allora, scusi. I soldi che sono stati impegnati sono stati offerti alla collettività, sono state fatte opere per la collettività e non sono andati, mi perdoni, come le ho testimoniato, in cose strane o non afferenti a un'attività di un'azienda pubblica. Allora le chiedo una cosa, tra la collettività a cui lei fa riferimento c'è anche la donna che non lavorava con lei, a cui lei ha fatto telefonate per 5.000 euro e facendo pagare il telefonino di servizio della AMSC e per cui lei è stato condannato a un anno e quattro mesi per peculato e interdizione dei pubblici uffici? Bene, allora io non sono stato condannato, io ho avuto una sentenza in primo grado. Vabbè, in primo grado ci mancherebbe. No, dottore, mi scusi, lei mi insegna, io ho una sentenza in primo grado e fino al terzo grado la legge italiana mi dice che io sono... Ma io le ho solo chiesto se i 5.000 euro del telefonino... Poi, no, e adesso arrivo. Non è vero che sono 5.000 euro, perché se lei va a vedere la sentenza, il danno presunto aziendale che mi viene attribuito è di 350 euro in 18 mesi. Ma almeno la donna c'era, no? Mi dica così. È tutto sballato. Scusi, abbiamo io sbagliato. Io le sto appena te stai dicendo che, e quindi è registrato. Se vuole le fornirò io tramite i miei legali la sentenza di primo grado. Volentieri. Le danno eventualmente procurato all'azienda di 300 circa 50 euro in 18 mesi. Senta, allora tra le attività di pubblico interesse c'era anche il supermercato di Gallarate per cui lei è stato condannato a 5 anni dal tribunale di Busto Arsizio perché assieme all'architetto Pier Michele e Milano avrebbe preteso 400.000 euro. Entra, mi perdoni, questo non rientra nell'attività dell'azienda, questo rientra invece nell'attacco politico che io ho subito e una sentenza anche qui di primo grado che un giudice ha ritenuto di trasformare un capo di imputazione per concussione perché mi identificava come pubblico ufficiale in quanto presidente di AMSC, mentre il giudice mi ha condannato, ha trasformato la concussione in estorsione dicendo che io... E il mio potere discendeva non dal presidente di AMSC, ma perché ero il coordinatore provinciale di Forza Italia. Ma quindi lei dice non abbiamo mai... È scritto in sentenza, dottore. No, ho capito, ma lei dice non abbiamo mai preteso 400.000 euro. A me non interessa se lei li ha pretesi come presidente della municipalizzata. Ma non potevo neanche pretenderli. Quindi perché... lei è stato condannato ingiustamente a 5 anni al tribunale per estorsione. Questo lo stabilirà la giustizia. Il primo grado c'è una sentenza. Arriveremo alla fine e vedremo. Cagliarello, per quello che è la mia attività di presidente di AMSC... Io non mi posso interessare, non rientra nella mission dell'azienda attività di natura urbanistica. E quindi teniamo le cose distinte da quello che era il mio ruolo di politico, da quello che era invece il mio ruolo, tra virgolette, di manager presunto. Ecco, adesso voglio esagerare. Allora, diciamo cosa, vediamo di chiuderla in bellezza, per modo di dire. Lei sostanzialmente dice che aver portato la municipalizzata di Gallarate in 10 anni da 12 milioni di attivo a 26 milioni di buco è frutto di investimenti per la collettività, che No, no, sorry, sto sintetizzando in maniera giornalistica. Lei dice che l'anno e quattro mesi che si è beccato per l'utilizzo del telefonino, in particolare per videochiamate a una donna, è una cosa tutta da dimostrare. Non sono videochiamate perché non c'erano danni, era solo una telefonata. Che i cinque anni che si è beccato per estorsione connessa al progetto di supermercato a Gallarate, anche questa è un'ipotesi del giudice e poi verrà verificata. E io che cosa le devo dire? Che è una grandissima vittima. No, che è una grandissima vittima, cioè, perché se lei si sta addossando. No, io non sono vittima, io le dico solo questo: che per un anno, da quando sono il primo atto di questa nuova amministrazione, che legittimamente e democraticamente ha vinto le elezioni, è stato che quando il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato, mi hanno licenziato da direttore generale. Io da allora ho evitato, per sia chiaro, di entrare in polemica con questa amministrazione, sia sotto l'aspetto politico che per quello che riguarda l'aspetto lavorativo e professionale. Voglio solo dire questo, dottore: siccome chi è venuto la volta scorsa ha detto che chiede, ha sempre chiesto e non ha avuto risposta, sia lui che l'amministrazione. Sì, che era l'assessore delle attività produttive Angelo Bruno Protasone. L'assessore. È noto ai media locali, e quindi lo dico anche qui, che il sindaco non vuole fare, e il presidente attuale dell'azienda negano qualsiasi tipo di confronto, al quale io, pur essendo stato zitto per un anno, ma ho avuto l'opportunità adesso di parlare con lei e la ringrazio, non mi sono mai negato a nessun tipo di confronto. Quindi bisogna mettersi in chiaro: o l'amministrazione comunale vuole il confronto e io non mi trago, o se poi non lo vuole per bocca del suo sindaco e per bocca dell'attuale presidente, non possono dire che io mi sottraggo. Allora, io le auguro in bocca al lupo, perché lei ha tutti i diritti di ritenersi ingiustamente perseguitato dalla giustizia. Una risposta però la devo dare ad alcuni ascoltatori: qui non è da controllare le cifre, qui partiamo da una municipalizzata che in 10 anni è passata da 12 milioni di euro di attivo a 26 milioni di euro di buco. Poi, se uno ritiene che gli investimenti che non hanno ritorno siano investimenti comunque da fare, sono fatti i suoi. Io la penso in maniera radicalmente opposta: gli investimenti si fanno quando c'è una copertura, non quando si lascia il rosso a una municipalizzata, perché poi lo pagano i cittadini. Ma sulle cifre, per favore, su quello mi sembra che nemmeno lei, che Agnello, le abbia contestate. Io la saluto, la ringrazio e chiudiamo, visto che stanno arrivando le persone qui in Viale Monterosa 91 per l'iniziativa Disperati Mai, i film, i corti realizzati dal London Short Film Festival, che riguardano una disperazione di chi ha altri problemi rispetto a doversi difendere dalla giustizia. Io vi lascio con, ringraziando chiaramente l'ex numero uno della AMSC di Gallarate, Nino Caianiello, vi lascio con l'appello da Quinto Potere, Sidney Lumet, e poi Vasco Rossi. Per chi non... noi ci vedremo con alcuni di voi fra qualche minuto qui in Viale Monterosa, con tutti gli altri invece l'appuntamento è domani dalle 17 in poi. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Radio 24. La passione si sente.